È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Vabbè, insomma, il punto è molto semplice, cari amici della Zanzara. Ho ricevuto molte lettere, molte mail, molti appelli, anche le persone che sono dall'altra parte del vetro, qui nello studio radiofonico della Zanzara a Milano, me l'hanno chiesto, mi hanno implorato. Richiamalo. Un po' l'arrabbiatura mi è passata, un po' no. Proviamo? Proviamo a chiamarlo, oppure facciamo una prima punturina. Ma sì, chiamiamolo, dai, chiamiamolo a Padova a casa sua, dai, che sta aspettando, su. Chiamiamolo a Padova a casa sua, dai, fatemi il numero. Fatemi il numero di David Parenzo a casa a Padova. Fatemi questo maledetto numero di telefono. Me lo fate o no? Vabbè, mandiamo il primo, la prima puntura della giornata col mitico Rotondi. Quindi a lei piace il Porcello? Certamente sì, perché Spadolini avrebbe candidato rettori di università, sindaci popolari ed espressioni della società civile. La politica mediocre di oggi, candida puttane e portaborse, è un problema della politica di oggi. Però. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura. Allora, avete sentito bene, il mitico Gianfranco Rotondi. Gianfranco Rotondi. Spadolini avrebbe candidato professore universitario. Qui hanno candidato mignotte e portaborse, o sbaglio? Questo è, risentiamo un attimo, Rotondi, numero uno. Quindi a lei piace il Porcello? Certamente sì, perché Spadolini avrebbe candidato rettori di università, sindaci popolari ed espressioni della società civile. La politica mediocre di oggi, candida puttane e portaborse, è un problema della politica di oggi. Però. Basta fare una puntura e tutto passerà. Sentite Leoni, l'onorevole Leoni, su Pompei, un'altra punturina di giornata. Fatemi squillare questo telefono, maledizione. Molti cittadini italiani pensano che Pompei sia la sede di una industria dove fanno le pompe, perché non conoscono, non l'hanno mai visto e sentono parlare di Pompei senza nemmeno rendersi conto di cosa ci sia Pompei. L'automobilina scontro sulla pista Luna Park, l'hai guidata come un pazzo. Ma il top di oggi è Giuliano Ferrara sulla Rai, sentite, questa mattina da Alessandro Milan. Giuliano Ferrara sulla Rai, numero uno. Perché da tre giorni non va in onda il Rai? Perché non ne ho voglia. Non ne ho. Mettiamola così. Vabbè. E i contratti che si fa? Uno fa il contratto e non c'ho voglia. Mettiamola così, non erano comunque le domande alle quali intendevo rispondere, sono cazzi miei, diciamo. Vabbè, insomma, bene, andiamo avanti. Ho capito, però Ferrara. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti, non si può sapere perché da tre giorni vai. Andiamo avanti. Oggi almeno andrà in onda, questo lo possiamo sapere. Andiamo avanti. Cazzi di Giuliano Ferrara. Il dottore ha detto già, basta fare una puntura. Beh, qualcosa bisogna dire pure di Monti, il signor Monti. Il signor Monti che dice, se qualcuno poi mi vuole dopo le elezioni, se non si mettono d'accordo va bene, però bisognerebbe essere eletti, Eccolo, va. Pronto? David? Pronto? Ci sei o no? Mi hai chiamato per chiedermi scusa, immagino. Sei tu che devi chiedere scusa, no io. Ma no, dico, scusa, sei impazzito, per due giorni non vai in onda. Per due giorni non vai in onda e sono io che devo chiedere scusa. hai creato un caso usando una cosa importante della mia vita. Ma che cosa hai importante? Fatto una cosa, e hai fatto una cosa molto scorretta, e lo sai. Ma secondo te a me me ne frega? Potevo, ma secondo te che ieri non potevo rispondere al telefono? Ma secondo te oggi a me non mi hai chiamato? Ma abbiamo parlato solo due minuti. Adesso mi terrei per fare la sceneggiata. Almeno mi chiedi scusa e mi dici: ho capito, tu avevi la tua festività importante. A me non me ne frega niente dello Yom Kippur, del Capodanno. Continui a fare le tue cose. Del Capodanno ebraico, del Capodanno. Aspetta, aspetta. Almeno chiedi scusa. Almeno ti chiedo scusa. Ma sei tu, a dover chiedere scusa? Però scusa, se ti va, resta qui che abbiamo una persona da intervistare. Io e poi, poi chiariamo. Non potevo, e rivendico il diritto di aver fatto quella cosa ieri che è importante per la mia vita. Ma che tua vita? Ma lascia perdere. Comunque, dopo ne parliamo. Che nella vita esistono delle cose. Dopo ne parliamo. Cose che tu non conosci. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Una cosa scorretta. Va bene, adesso. Purtroppo non ti posso. Purtroppo non ti posso replicare perché altrimenti. Tu devi fermarti, però eccetera. Ti devi fermare perché se non ti io non ti posso rispondere. Scusa, ma non ti posso rispondere, non ti chiedo scusa, ma non ti posso nemmeno rispondere perché sennò ti risponderei a tono, perché altrimenti occuperemmo tutta la trasmissione. Detto che oggi ci sarei non stato. Me ne frega niente, resta un attimo lì, ferma, ne parliamo dopo. Se vuoi dopo litighiamo, lo facciamo in pubblico, no, così la gente capisce. Litigare in pubblico, ma deve sapere che ho fatto una cosa. No, che hai fatto una stronzata, ma lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ho detto ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. È con noi Renato Farina, buonasera. Buonasera. Come va? Ecco, come va? Un inizio con un inizio di quelli, diciamo, proprio che poteva andare meglio, ecco. Farina Dreyfus, allora ormai tutti sapete, oggi ha confessato alla Camera di essere Dreyfus, autore dell'articolo per cui lui si è stato condannato, quello che sapete, in realtà l'aveva già detto ieri sera Feltri a Porta, forse lo sapevano tutti, anzi sicuramente i diretti interessati, cioè Sallusti, Feltri e altri, lo sapevano perfettamente, questo sostengo io. Allora la prima domanda però a Farina è questa: Enrico Mentana, che è uno dei principali kingmaker dell'informazione in Italia, molto bravo, cioè, da lei ha dato dell'infame per non aver rivelato questa cosa prima. Cioè, ha fatto molto bene. Ma ha fatto bene, lo dici tu. Risposta di Farina alla cosa di Mentana, però. Ma io non, cioè, è una cosa così grave che non trovo le parole. Diciamo che io da un certo circuito giornalistico sono stato sbattuto fuori. Qualunque cosa dica o faccia viene... tenuto un motivo buono per tirarmi i sassi. Ma perché Mentana le ha dato dell'infame? Scusi, perché c'è un pregresso, c'è qualcosa? No, non c'è nulla. Beh, ma come risponde a questa accusa? Uno dell'età dell'infame, che fa? Lo porta in tribunale? Figuriamoci adesso. Guarda, a me basta che questa accusa qua ha creato una scia notevole di insulti ulteriori, perché proprio perché Mentana è una persona importante, questa parola infame evoca negli ambienti carcerari che io frequento, evoca il bisogno di una protezione. Per cui questa cosa. Cioè, Mentana ha fatto scaturire delle minacce online, eccetera, eccetera? Ma certo. Ma non so se è stato lui, probabilmente me le merito adesso. Diciamo Renato, scusa un attimo, poi te la faccio dire. Però questa cosa è importante perché tu hai detto che un'accusa grave come quella che ha fatto Mentana, che è una persona molto conosciuta, di infame, è sicuramente pericolosa. È pericolosa e ti ha provocato già dei guai, cioè da quel no, momento. Guai no, non è. No, ma guai a livello di minacce online, ma questa cosa qui. Ma qualcosa, occhio con due K. Vabbè, ma queste cose sono le cose tipiche. Beh, però questa è importante. Però ascoltami, ma non voglio guarda, siamo persone pubbliche, per cui siamo esposti pubblicamente, non sarò uno che si lamenta perché... Ma cosa vuoi dire a Mentana? Fermati, hai fatto un... Cioè... No, ascoltami, siccome mi dicono che sono infame e che sono anche un vigliacco, io dico, comunico questa notizia. Vigliacco lo dice Feltri, eh? Ma non l'ha detto in pubblico, per cui per me le cose... Beh, però non l'ha smentito, no, Renato. No, le cose dette fuori onda o per intercettazione, se i miei principi non esistono. Esistono cose dette, coscienti di dirle davanti al pubblico e vis-à-vis. Siccome questa cosa non mi è stata detta né vis-à-vis né davanti a un... né, io, per me non esiste. Se poi la dirà, io non dirò mai una sola parola. Però scusa, oggi non l'ha smentita questa cosa qua. Ti ha dato poco coraggioso... Evidentemente l'avrà detto. Poi, appunto. Ma non so se... Comunque... Io non come gli rispondi però? Ti ha dato del vigliacco. Voglio dire questo, io a Feltri non risponderò mai e tutte le cose che dice Feltri io mi inchino e le ascolto. Detto questo, però a Mentana vuoi rispondere? Comunico a tutti, no, sì, questo, sì. Io ho ricevuto una condanna a 2 anni e 8 mesi senza condizionali per le mie visite in carcere. No? Io ti ho difeso su questo. Essendomi occupato, non entriamo nel merito del perché, anche no, certo. Vediamo solo che è la prima cosa in 37 anni di vita, che c'è questa che consente ai deputati di andare in carcere, che uno subisce una condanna. Sì, perché sei andato in carcere, perché hai accompagnato una persona in carcere. Una persona che... non ritenuta collaboratore. Sì. E allora? Poi se vogliamo... Allora, io dico che io rinuncio a proporre appello, per cui la pena diventerà immediatamente esecutiva quando ci sarà l'emissione della sentenza. Quando diventerà esecutiva? Dopo i primi di ottobre, dopo passano 60 giorni il tempo di presentare l'appello, dopo se non presento l'appello diventa esecutiva. Cioè, quando è che puoi entrare in carcere? Quando è che potresti entrare in carcere? In carcere non credo, perché cioè, adesso si sta costruendo questa cosa. Cioè, diciamo comunque che diventerebbe esecutiva verso dicembre. Sì. 2 anni e 8 mesi. No? Vuoi vedere se c'è una mobilitazione? Vuoi vedere no, se ma no, assolutamente non mi interessa. Allora, perché la citi? Perché la citi? Perché la citi? Perché per dimostrare che non sono un vigliacco e non sono un infame. A me, io se la settimana scorsa fossi intervenuto, sì, sarei salito anch'io sul palchetto dell'eroe. Io, che è quello cosa, che ha fatto Sallusti? No, giustamente, perché voglio dire... Ma la sta sfruttando mediaticamente, no, questa situazione? Assolutamente, no, assolutamente. Ti faccio sentire però fra poco dei pezzi di Pomeriggio 5, vediamo se cambi idea. Ti faccio sentire dei pezzi di Pomeriggio 5, vediamo se cambi idea. Perché io sai, non guardo in faccia a nessuno, però mi sembra francamente che su un'ipotesi di scuola, quella di andare in carcere, perché è un'ipotesi, diciamocelo francamente, un'ipotesi di scuola, si stia costruendo qualcosa che va al di là della semplice difesa del diritto alla libera informazione, alla libera espressione, eccetera eccetera. Torniamo tra un attimo dopo il traffico. Renato Farina, deputato del PDL. Davide, ci sei sempre o te ne vuoi andare? Non ho capito. No, ci sono, volevo chiarire quella cosa, ma io ci non sono, ti chiedo dire... ovviamente non ti chiederò scusa. A un certo punto Barbara D'Urso oggi pomeriggio, bravissima conduttrice, su Pomeriggio 5, fa vedere la sedia vuota di Sallusti. Questa è la sedia vuota al giornale. Sentite. Io sono rientrata in onda e c'era questa poltrona vuota che adesso vi faccio vedere. Questa poltrona vuota che perché lui in quel momento, esattamente alle 18, era chiuso con i suoi giornalisti e gli stava dicendo, dopo 30 secondi dalla condanna, gli stava dando la notizia che si stava dimettendo. Allora, faccio appello abbiamo con noi Renato Farina, che oggi alla Camera ha parlato, ha detto che lui è l'autore di quell'articolo incriminato, eccetera, eccetera. Non però... ho detto solo questo. Sì. No, certo, adesso sto sintetizzando. No, ma certo. Ti chiedo una cosa. Tu pensi che questa cosa da parte di Sallusti, non solo di Sallusti, venga utilizzata... anche per scopi legittimi, naturalmente, che sia quelli di spettacolarizzazione, pubblicità, eccetera eccetera? Dimmelo escludo, sinceramente. Escludo, perché la prigione è una cosa troppo seria. Mm. Chi l'ha vista, chi sa che è una cosa che voglio dire, non è un gioco che valga la candela, ed escludo che Sallusti sia su questa pista. Mm. Semplicemente per la cocciutaggine, anzi direi, come posso dire, una cosa, cioè con la giusta ostinazione nel difendere dei principi, ha deciso di giocare una partita per modificare una cosa storta che è in Italia, cioè che è la legislazione. Beh, che adesso sui giornali, detto Farina, detto questo? Ciascuno, voglio dire, chi fa televisione cerca di rendere la cosa in modo plastico, no? No, ma certo. E lui certamente, siccome è un giornalista, sì, è anche capace di far spettacolo su se stesso, ma questo è una cosa che appartiene alla natura del nostro lavoro. Ma lei vorrebbe andare in carcere al posto di Sallusti, se mai dovesse andare in carcere? Vorrei, cioè, è una parola esagerata, direi. Cioè, non però vorrei andare in carcere, però se mi propongono uno scambio accetto, ma non c'è dubbio su questo. Stanotte ha pregato. Nessuno è mai pronto ad andare in carcere, questo ci tengo a dire. Ragazzi, mi hanno chiesto: è pronto ad andare in carcere? Io non sono pronto, nessuno è pronto, perché oggi come oggi le carceri in Italia sono il punto di peggior abbruttimento, sì, che esista sulla faccia dell'Europa, almeno non dico del pianeta. Parenzo, che hai da dire? No, voglio dire a Farina che intanto ha fatto una furbata vergognosa. Perché? Perché usando lo pseudonimo indegno di Dreyfus. Ma che Dreyfus... c'entra? Quella è una roba vecchia, sì. Dai, su. No, ho usato uno pseudonimo indegno perché il ma non stai a parlare, Dreyfus, perché parli dello pseudonimo? Chi se ne frega, dai. Giustamente di spionaggio. Lui invece spia lo era e doveva firmarsi Betulla Ortica. Ma che c'entra? Quella è roba del 2007. Questo è il primo problema. Vabbè, poi, primo problema. Questa è questa è un insulto, non è una polemica, no, dai. Dreyfus fu accusato ingiustamente di essere spia. Lui ha usato uno pseudonimo. Adesso stai discutendo. Dreyfus è stato accusato di aver tradito il proprio paese. E fu accusato ingiustamente. Io non ho mai tradito il mio paese. Con Dreyfus. Tu non c'entri con Dreyfus. Scusi, Farina. Smettila, dai. Farina, perché non hai chiesto scusa prima a Cocilovo se l'hai fatto oggi alla Camera? Perché non l'hai fatto prima? Perché lui ieri nell'intervista che ha fatto qui alla Zanzara, il giudice Cocilovo, che è quello che ha fatto querela nei confronti di Sallusti, di Libero, eccetera, eccetera, ha detto: beh, io in 6 anni non ho ricevuto una lettera di scuse, una parola di scuse, probabilmente avrei ritirato la querela. Guarda, io questa cosa non la sapevo di questa sua... La questione è molto semplice. Io ho saputo di questa vicenda esattamente 10 giorni fa. Cioè, no? Prima non sapevi nulla delle querele, no, delle condanne, eccetera. Che questo articolo non sapevo fosse querelato. Lo giuro. Cioè, vabbè, ma no, ci credo. Cioè, è proprio una cosa reale. Cioè, non sapevo. Ma hai parlato nulla. Con Sallusti di questo? Che ti ha detto? Gli ho mandato un messaggio, gli ho telefonato, non sono riuscito a mettermi in contatto con lui. Ma non gli hai chiesto se no, vuoi? No, ascolta, io ho detto, io farò tutto ciò che è utile, disponi tu, no? Allora, io... E lui come ha risposto? Non ha risposto. Dopodiché io mi sono consultato con i miei avvocati, ho anche peraltro parlato con Feltri, e mi hanno detto che era una cosa inutile, in più avrebbe portato... Cioè Feltri ti ha detto che era una cosa inutile dirlo? No, Feltri... I tuoi avvocati? Le mie conversazioni con Feltri non le dico. Che i miei avvocati mi hanno detto questo, che non avrebbe in nessun caso alleggerito la posizione di Sallusti, perché in Cassazione si giudica di legittimità e non sui fatti, che oltretutto c'è la questione dell'ordine dei giornalisti, perché Sallusti aveva testimoniato che Dreyfus non ero io, bensì era uno pseudonimo che si riferiva alla direzione. Dunque, se tu dicevi allora, una cosa... Allora, io l'avrei messo nei guai con l'ordine, perché la mia... Ho capito. Ma perché adesso Feltri ti attacca? Perché Feltri ti attacca allora adesso? Spiegami. Non lo so dire. Cioè, è inspiegabile questa cosa? No, non è inspiegabile. Non lo so dire semplicemente, si può spiegare. Ma non... Io di certo in coscienza... Ciascuno può giudicare i sentimenti intimi degli altri. I miei, se permetti... li conosco io e so che non erano sentimenti né di viltà né di volontà di nascondimento. Semplicemente ho creduto di non... Ma non è il caso di dimettersi? Non è il caso né mettermi in mostra come uno che fa il gesto. Nel momento in ho capito cui benissimo. È palesata questa sentenza, io l'ho messo davanti all'errore giudiziario tutti, e in questo modo diventa inevitabile la revisione del processo, diventa a questo un'ultima punto cosa, ti posso chiedere, io sono esposto, perché non ti dimetti da deputato, così rendi tutto più facile? Ma perché non dovete mettermi da deputato, cosa cambia? Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Pochi minuti fa il signor Brunetta, Renato Brunetta, ex ministro del governo Berlusconi, gentili ascoltatori della Zanzara, siete di nuovo in diretta qui con il redivivo David Parenzo, cui non chiederò mai scusa, però fermati David, ancora non è il momento. Dico, redivivo un cazzo, 12 e 13 settembre 2013, non ci sarò per la stessa ragione di 2 giorni fa. Ma se tu non ci sarai il 12 e 13 settembre non ci sarai più alla radio, questo è il punto. 2013, fermo, poi vattene in televisione, fai quello che ti pare, un attimo, no, poi ne parliamo, c'è tempo, sono le 16:18, fino alle 21 devi stare. In privato, non è che ti voglio umiliare in pubblico, comunque andiamo umiliare in pubblico. Mi puoi chiedere essere anche, scusa, ma il Capodanno mormone, ma di che parliamo, del Capodanno mormone, su, chiudiamola qui, mi chiedi scusa in privato, dai, su, ma non smettiamola, dai, su, ulteriormente 12 e 13 il lavoro è sangue e merda, il lavoro è sangue e merda, sacrificio ogni giorno, ogni santissimo giorno, non grattarsi le balle. 2013 non va bene, ci sarò, il titolo, e allora puoi anche non firmare, puoi anche non firmare i contratti. Andiamo con i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Monti non esclude il bis in circostanze speciali e se mi verrà chiesto valuterò, dice il premier. Berlusconi, grande imbroglio non è il governo tecnico ma l'euro. Ancora tensioni sui mercati per la crisi della Spagna. Madrid vara la manovra di 40 miliardi, frena l'economia americana, bene l'asta dei BTP. Sale la tensione a Taranto, gli operai dell'Ilva in sciopero bloccano le strade dopo la bocciatura del piano di risanamento dell'azienda. Marchionne, Fiat non vuole aiuti dall'Italia e dall'Europa. Senza Chrysler oggi sarebbe un inferno. La Camusso dica su quali modelli intende puntare. Indegne condizioni delle carceri. Napolitano sollecita le Camere a misure di clemenza. E sul caso Sallusti, cambiare subito le norme sulla diffamazione. La Polverini ha firmato un'ora fa le dimissioni dopo aver eliminato 5 assessori e fatto 9 nomini. La conferenza delle regioni esorta il governo sui tagli. A Brescia bambini rom a scuola a piedi lungo la tangenziale tra auto e tir che sfrecciano. Il sindaco ha sospeso lo scuola bus per le rette non pagate. La zanzara è quell'odioso insetto. Allora, prima di tornare con Renato Farina, deputato del PDL, in questo caso alias Dreyfus per la nota vicenda che ha coinvolto Sallusti. Ma invitare una persona per bene ogni tanto, ma, no? Ma perché? Perché è un delinquente, Farina? No, delinquente no. Perché è stato condannato, perché è stato condannato per una storia ridicola, per aver portato da Lele Mora un signore, cosa che fanno tutti, cosa che fanno tutti. La legge è legge. Ma perché la legge? Ha fatto delle cose scorrette, comunque. Ma perché gli stai dando di persona che non è... Criticalo, no? Perché gli dai del delinquente? No, dico che in questo paese non è detto che è un delinquente. Ma hai detto che non è una persona per bene, ma dico, sei impazzito. Uno che è stato condannato... Comunque, guarda, sulla vicenda Sallusti, eccetera, a prescindere da Farina, io voglio dire come la penso, l'ho già scritto in un tweet. Non siamo cittadini diversi noi giornalisti, siamo come gli altri. Siamo come gli altri. Secondo me, per un articolo si può anche, secondo me, si può anche finire in galera. Le parole possono uccidere, e questo anche Farina lo sa benissimo, possono distruggere le persone, possono distruggere le persone, perché è accaduto. È accaduto anche durante Mani Pulite, ma non solo durante Mani Pulite. Dunque no all'impunità totale, no alla casta dei giornalisti, cosa che sto vedendo vergognosa in queste ore, in questi giorni, semplicemente per convenienze personali, aggrapparsi e mettersi intorno a Sallusti. Sì, perché vogliono l'impunità totale, la solidarietà da parte di persone che non la pensano come Sallusti, in questo caso è patetica. Perché? Semplicemente perché vogliono proteggere se stessi dall'impunità totale, vogliono l'impunità totale per le cose che dicono e scrivono in alcuni casi. Se io dicessi che qualcuno è un pezzo di merda, uno stronzo, se dicessi che qualcuno sì, benissimo, se qualcuno mi porta in tribunale io sono pronto ad accettare le conseguenze, se qualcuno sostiene. Ma non il carcere per un'opinione, questo mi pare ma evidente. Non c'entra comunque niente con le opinioni, le opinioni possono distruggere. Perché questa cosa delle opinioni? Non è che le opinioni possono, ci sono anche opinioni non neutrali, ci sono opinioni che fanno male, che distruggono vite. Non proprio è detto, tu lo dici, certo, certo, proprio lo dico, tu, certo, proprio tu, certo proprio che lo dico, tu. Lo dico, ma sono pronto, ma non hai capito tu, ancora. Tu. Io sono pronto ad accettare le conseguenze di questa cosa. Non dico che non sono pronto ad accettare le conseguenze. Se qualcuno mi vuole portare in galera perché io gli ho dato dell'assassino, perché io gli do dell'assassino e mi porta in galera, sono di Putin si va in galera per le idee. Pussi Sallusti, allora, Pussi Sallusti. Poi anch'io sono d'accordo con te, questa roba qui non siamo tutti Sallusti hashtag, cioè siamo tutti Sallusti hashtag mi pare una stronzata. Io dico hashtag non siamo tutti Sallusti, perché non siamo, io non sono Sallusti. Vabbè, e sono, voglio chiedere a Renato Farina Sallusti una cosa, un approfondimento su questa cosa dell'infame di Mentana, perché è una cosa pesante. Ma io penso che non abbia letto cosa ho detto, abbia letto un po' così tanto. Io parole e libertà, dici, parole e libertà, non lo so, vediamo se. No, ma in carcere e la parola infame viene usata per individuare un obiettivo? Sì, certo. Una persona da colpire? Quelli che sono sono detti infermi sono immediatamente trasferiti nelle celle protette dove si spera che non vengano eliminati. Questa è la parola infame, è una parola tecnica, non è una, per cui non, cioè, Mentana lo sa benissimo. Deve chiedere, dovrebbe chiederti che, scusa? Dovrebbe no, chiederti ma scusa? Figurati, io, anzi, guarda, io non pretendo niente, ciascuno agisca secondo coscienza, ma io non, figuriamoci, guarda, oggi è il giorno in cui io ho chiesto scusa. Vorrei tardi. Ma se fino tardi, a 10 ma se fino a 10 giorni fa non sapeva della querela, ha detto. Rispetto a che cosa? Tempo scaduto, caro Dreyfus. Signore Parenzo, signor sì. Dreyfus, tempo scaduto e cambia pseudonimo perché quello non va bene. Ma non lo usa più, era del 2006. L'ho usato due mesi, sì. Ma comunque hai sbagliato. Volevo vabbè, comunque adesso non mi ricordo qual era il filo del mio pensiero. Io ho tempo scaduto. Chiesto, il tempo non è scaduto, tant'è che il magistrato fa il tempo. Un attimo. Querelarmi perché dal momento in cui si rivela l'identità dell'autore dell'articolo ha 3 mesi di tempo per querelarmi penalmente. Dunque fa benissimo in tempo. Non c'entra niente l'essere deputato o no, perché la sentenza definitiva con l'articolo 68 della Costituzione che c'è adesso si esegue comunque, tant'è che Totò Cuffaro è andato in carcere. Vabbè, però è più complicato, è più complicato. Non è complicato per noi. No, cioè è più facile difendersi da deputato anche da accuse di questo tipo. Uno può dire... Non credo, non è vero. Ah no, perché in questo caso tu non eri deputato, tra l'altro. Non ero deputato, per cui non c'è nessuna insindacabilità. Non c'entra. Perché ti metti sempre nei guai, però, Renato? Dalla vicenda di Betula, dalla vicenda di Lele Mora, dalla vicenda adesso... È una cosa che mi chiedo anch'io. A me sembra ogni tanto... cioè ogni comparazione è claudica, no? Comparatio claudicat. Cioè? Parva eccetera, componere mangia, eccetera, eccetera. Cioè, a me mi sembra di essere come nella Bibbia, come nella Bibbia la vicenda, cioè mi sembra del profeta Giona che cioè qualsiasi cosa succedeva causava disgrazia a se stessi e al prossimo. Cioè, sei come il profeta Giona. Come mi ha detto Feltri, appena io gli ho telefonato dopo aver letto il suo articolo venerdì. Venerdì fatale in cui ha preso la cosa, mi ha detto: ma tu sei proprio Attila. No, sono il profeta Giona, dice. Sono il profeta Giona. No, cioè si vede che ho una missione, non so, forse sarà quella di redimere le patrie galere, non lo so. Certo che anch'io sono stupefatto, sono sempre stato un bravo ragazzo, dicevano tutti. Però scusa un attimo, Renato, ecco, questo è un tratto interessante, però Feltri, tu non puoi non considerare quel fuori onda di Feltri, adesso tu non lo vuoi considerare, ma lo devi considerare. Non lo voglio considerare. Ma perché non lo vuoi considerare? Perché pezzo di merda, pezzo di merda, ma non l'ha detto, ma vabbè, gli sarà scappato. Poi, Vile, codardo, vi siete sentiti fino a qualche giorno prima, sapeva benissimo che com'erano le cose. Ascoltami, noi ci siamo parlati al telefono, per cui lo sai cos'è, io ero disponibile a tutto. Sì, lo so che ci siamo parlati al telefono. No, ma te lo dico perché tu molto realmente non hai... Io lo sapevo, lo dico a tutti gli ascoltatori, io e Renato Farina ci siamo parlati per telefono 2 giorni fa, 3 giorni fa, lui mi ha detto di essere l'autore dell'articolo, ma lo sapevano in diverse persone. Io mi ha chiesto di non dirlo, di non dire nulla perché non voleva dirlo per non mettere in difficoltà Sallusti. Queste sono le parole che mi ha detto, che ci crediate o no. Ma io stesso ho detto di chiamare lui Sallusti, ti ho detto di chiamare Sallusti perché io non riuscivo a parlare, per rivelare questa cosa, chiedendo se era il caso che io lo dicessi, perché io non avevo risposta. Devo dire che mi ha detto che lo avrebbe danneggiato, punto e basta. Però questa è la cosa, devo dire una cosa, mi hai anche chiesto se stavo registrando o no. È vero, perché io mi vergogno di avertelo chiesto. Sapevi che era impossibile che io registravo? No, dopodiché... Vabbè, lasciamo perdere. Immediatamente, appena me l'hai detto, ti ho creduto subito, perché nella vita... Stanotte hai pregato per Sallusti? Hai pregato in questi giorni per Sallusti per la sentenza o no? Direi di sì, anche. Sì, c'era di... Ma naturalmente, ma la persona che più desiderava non fosse condannata al mondo ero io. Possiamo capirlo questo, no? No, ma certo, questo ci credi anche tu, Parenzo, a questa cosa o no? Ma non ci credo alla telefonata, ma non è che la buona fede si scelga, cioè voglio dire, qui non c'è buona fede. Sì. Lui qui doveva prendere il telefono appena vista la cosa, parlare con Sallusti. Ma questo ha cercato di farlo. Uscire allo scoperto e ma dire, i suoi avvocati gli hanno detto che era negativo per Sallusti. Pseudonimo indegno, chiusa parentesi. Vabbè, questo l'hai già detto, dai, perché lo devi ripetere 40 volte. Nel mio libro ho spiegato perché mi sentivo non una affinità nel senso di uguaglianza, ma comunque un'ispirazione nella vicenda. Ma riscriveresti le cose che riscriveresti le cose che hai detto quel giudice? Vabbè, tutto nasce da informazioni sbagliate che hai avuto. Assolutamente no, sulla base di altre, cioè delle informazioni che ci sono adesso. Comunque adesso non torniamo su questa vicenda. Ma no, comunque il problema è questo, cioè nel momento in cui a uno gli dicono commenta questo pezzo di cronaca e fa che era sbagliato, si fida di quello che gli danno il pezzo di cronaca, se no il lavoro nei giornali non esiste, no? Tu non verifichi le cose. I magistrati secondo te hanno voluto colpire Sallusti con questa sentenza? Guarda, c'è a proposito di quanto dicevi prima tu, no? Cioè che voglio dire, i giornalisti vogliono essere impuniti, esiste un fatto che i magistrati vogliono essere particolarmente salvaguardati. Anche quando loro. Quando c'è un articolo che riguarda i magistrati, le sentenze sono sempre straordinariamente severe e non si accettano attenuanti, come è il caso. Ho capito. Grazie Renato, grazie di essere stato con noi. Grazie della insomma di avermi ascoltato. Eccoci qui, 800 24 00 24, in collegamento provvisorio, non so quanto durerà, con David Parenzo da Padova, da casa sua a Padova, dove in questi due giorni ha festeggiato lo Yom Kippur. Esatto. Lo Yom Kippur, il capodanno ebraico di cui io me ne fotto. Io sono ignorante, ma sono soprattutto felice di essere ignorante in questo caso. È il giorno del digiuno. Ma io me ne fotto totalmente, cioè, non hai capito ancora. Più importanti. Non ci sono tutti gli ebrei d'Italia che lo festeggiano, lo sai benissimo. L'anno prossimo, 12 e 13 settembre 2013, ma tu puoi fare quello che vuoi. Puoi fare quello io che vuoi. Non ci sarò. Peggio quindi, per te. Già, peggio per te. Ma devi firmare. Dipende da chi ti fa firmare un contratto, se lo consente. Me lo auguro. Dopodiché puoi chiedermi scusa anche in privato, perché non voglio umiliare ulteriormente la tua situazione. Andiamo avanti e va bene. Ma io non devo chiedere scusa di nulla. Sei tu che devi chiedere scusa ai tantissimi ascoltatori della Zanzara che se ne fottono del capodanno mormone, del capodanno buddista e del digiuno degli evangelici. Se ne sbattono le palle. Anche questo beneficio, quello di farlo in privato, come si fa tra amici, tra persone per bene, senza dover far diventare questa una cosa pubblica, come hai voluto farla diventare. No, non ho voluto, è diventato così. 13 settembre 2013, io non ci sarò, forse non sarò più con te, e chi se ne frega. Ci e chi se ne frega. Massimo da Roma, 800 24 00 24, la Zanzara. Massimo, buonasera. Sì, vada. Complimenti per la trasmissione, siete molto bravi. Vada. Volevo intervenire sul caso Sallusti. Sì. Ma lo sapete, lo sapete che una volta, allora Vittorio Sgarbi, che è il re di queste cose, scusi un attimo Massimo, lo interrompo ma le ridò subito la parola, Vittorio Sgarbi è il re delle querele, delle diffamazioni, delle cose estreme, come se avete detto in radio, in televisione, eccetera, eccetera, soprattutto nel periodo, ma anche adesso, soprattutto nel periodo d'oro, quello degli Sgarbi quotidiani, ti ricordi Parenzo, no? Come no? Mitico periodo. Allora, oggi mi hanno raccontato una cosa spettacolare. Che praticamente una volta lui è finito in tribunale, una cosa che non si conosce bene, è finito in tribunale perché durante il trucco a Mediaset di Sgarbi quotidiani, la truccatrice di Mediaset, anzi Sgarbi era infastidito perché la truccatrice di Mediaset gli diceva, cioè insisteva su, nel truccarlo, lui se ne fregava, non voleva, a un certo punto, vi ripeto le parole esatte che mi hanno riferito, dunque, cari bambini, dillo tu Parenzo, che mi fai saltare questa cosa, mi fa venire. Cari bambini che siete in ascolto, genitori, cari genitori, sì. Cari genitori che avete con voi macchine e bambini, fermatevi, fate scendere il bambino sull'autostrada. Ma adesso questo mi sembra esagerato. Possibilmente sul lato dello spargito, cioè non nel mezzo della strada. Chiaro. Oppure tappate le orecchie ai vostri bambini, alzate la radio a tutto volume e ascoltate questa cosa che io non so, ma sarà volgarissima, di Sgarbi. Allora, Vittorio Sgarbi ha una truccatrice di Mediaset, siamo nell'anno credo intorno al 96, una cosa di questo tipo. Sì. Mettimi un po' di cipria su sto pisello. Questa è la frase di Sgarbi. Ma è veramente, a parte che è un maschilista, ma è un poveretto veramente. Questa frase l'ho portata in tribunale. L'ho portata in tribunale per atti osceni, non so quale altro reato. È una lavoratrice, tra l'altro. Vabbè, ho capito, dai, su, l'ha portato in tribunale questa truccatrice di Mediaset. E l'ha querelato, però la cosa è andata in prescrizione, dunque se l'è cavata, ma se l'è cavata anche nei confronti dei giudici di Mani Pulite, addirittura il giudice Colombo. Male. Mitico giudice Colombo, Gerardo Colombo, ha ritirato proprio all'ultimo momento una querela per una condanna che l'avrebbe trascinato in carcere, era stato condannato a 8 mesi per avergli detto qualsiasi cosa durante una trasmissione. E poi ci sono tantissimi episodi di Sgarbi che magari nei prossimi giorni rievocheremo. Massimo, prego. Eccomi qua. Vada. Volevo intervenire sul caso Sallusti. Sì. Volevo dire che l'unica cosa che mi spiace del fatto che lui non andrà in galera, perché non andrà, sì, è che doveva finirci Renato Farina in galera, perché chiaramente chi scrive l'articolo è lui che lancia le c'è pietre. Anche l'omesso controllo, la responsabilità, sì, del direttore. Sì, sì, adesso sì, non entriamo in queste cose ridicole, dai, su. Quello però poteva essere sanzionato in altro modo, senza andare comunque in galera, la cosa incredibile di questa vicenda è che se uno chiede alle persone normali, non ai giornalisti, alle persone normali, ai cittadini normali per strada, non è che dicono siamo tutti Sallusti, la libertà di espressione, se ne fottono, ti dicono ma perché uno che commette un reato, se è previsto dalla legge, non deve finire in galera? Perché i politici ci hanno messo non so quanti anni? Perché i politici, un attimo solo Massimo, perché i politici si svegliano solo adesso e non modificano le leggi che portano al carcere per i cosiddetti reati di opinione? Perché lo dicono solo adesso? Chi ce l'ha il potere legislativo? Mio nonno, Massimo. Ma certo, quello è patetico, adesso l'intervento poi del Presidente della Repubblica, ma ci mancherebbe altro. Sallusti, se l'hai cercata a modo suo, si faccia questi 14 mesi di carcere o affidata ai servizi sociali o quello che sarà e facciamola finita lì. I problemi dell'Italia sono ben altri che non 14 mesi di Sallusti. Dopodiché la comparsata di Barbara D'Urso, che io non ho visto, con la poltrona vuota di Sallusti, dai, lasciamo stare, insomma. Proprio si è già commentato troppo. Vogliamo sentire la sente anche oggi a pomeriggio 5, se abbiamo qualche stralcio meraviglioso. Sarà patetica anche lei, dai. Beh, adesso non lo so, fermi tutti. Cioè, comunque la cosa è diventata anche un po' spettacolo. Ci sta, Parenzo, ci sta o no? Lei di Sallusti in soccorso dell'amato, mi pare una storia straordinaria. Vabbè, questo degna del miglior questo è scontato dirlo. Va bene che tu lo dica, ci sta? Questa è la domanda, ci sta questa cosa qua? Cioè, è l'amore. Ma no, lei, voglio dire, tutta la spettacolarizzazione della vicenda, pomeriggio 5, la sedia vuota, il pathos, il carcere, è quello, e fa quello. Ci sta. Ci sta la grandissima. Io non devo trovare una persona sola che dice sono Sallusti. Questo secondo me per buon gusto nessuno lo dirà mai, comunque. Come? Non è che uno le persone per strada, come tu hai citato poco fa, certo, non vanno in giro a dire io sono Sallusti. Ma no, ma lo diciamo, anzi io non lo dico, lo dice il gruppo ristretto dei giornalisti e della stampa italiana, di cui la gente se ne sbatte le palle, certo, e che vede come una casta che protegge se stessa. Questo è il punto. Questo è vero. Sentiamo la Santa Che. Io ho sempre spiegato a mio figlio che le persone socialmente pericolose sono gli stupratori, quelli che ammazzano, quelli che rubano, non un direttore di un giornale. E Giulia applausi! E Giulia applausi, cari signori, Giulia applausi! E dov'erano? Dov'erano questi signori del centrodestra quando cacciavano dalla Rai Santoro? Dov'erano? Vabbè, questo adesso che c'entra Santoro, scusami, adesso è ripartito bene, hai messo in mezzo Santoro, ma che c'entra? No, il problema è un altro, dov'erano? Dov'erano? Aspetta, dov'erano? Dov'erano nel modificare le leggi? Perché non le hanno cambiate? Perché non hanno eliminato la possibilità del carcere? Il potere legislativo di cambiare le leggi che adesso criticano è in mano a questi signori che adesso ci fanno la morale, bisogna cambiare le leggi, mai più carcere per i giornalisti, ma sono loro che devono intervenire, gli stessi che adesso parlano, io divento pazzo. Bravo. Un'altra cosa della Santa Che. Credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi che c'è ancora qualcuno che in questo paese le palle ce le ha. Ecco, la tua amica Mirta Merlino, per esempio, adesso su Twitter scrive: aspetta, il mio pensiero a Sallusti, non condivido le tue idee, ma mi batterò fino alla morte perché tu possa esprimerle, che è una cosa di Voltaire. Posso dire alla comune amica Mirta Merlino che questo pensiero in questo momento non c'entra un bene amato mazzo? No, brava Mirta. Volevo dire una mazza e ho fatto una sintesi brava tra cazzo e mazza. Brava Mirta, perché sa sempre annusare l'aria che tira, quindi brava. Vabbè, grazie Massimo. Tommaso da Firenze. Tommaso. Tommaso Farina, il figlio. Ciao, ma che Tommaso? Buonasera. Ah, Tommaso Farina, l'altro giorno, tra l'altro, ho chiamato a casa Farina, cercando Farina, alias Betulla, alias Dreyfus, eccetera, eccetera. Uomo che si mette nei guai da solo, come lui stesso ha detto, che provoca disastri. Feltri lo ha chiamato, se proprio, Attila, così ci ha detto prima Renato Farina. Il figlio si chiama Tommaso, signor Tommaso Farina, ha la voce identica a quella del padre. Riccardo Poli l'ha chiamato a casa, qui dalla redazione della Zanzara, l'ha chiamato e ho parlato con Farina. Guarda, mi sembra difficile che sia a casa, è a Roma, allora fammi provare a me. Ho preso il telefono io, era la voce identica uguale a quella del padre, ma era il figlio. Tommaso, dica. voce da cattolico pedofilo quello di no di ma Farina. Adesso io su non lo sopporto, ma Tommaso non scusi ma come fa a dire voce da cattolico pedofilo, su, non mi faccia incazzare, ma subito voce da sacerdote fa una rabbia per girare le scatole. Ma poi già quella storia parli più forte, parli più forte, avvicini la bocca alla cornetta, quel telefonino maledetto. Già ce l'avevo con lui quando aveva fatto il discorso di fare ruffiare, di portare quell'altro in galera, già non lo sopportavo. Ma giornalisticamente è proprio un coglione. Poi io volevo dire due punti. Il punto non deve nemmeno aprire bocca su questa cosa. Nemmeno chi è che non deve aprire bocca, scusi? Perché la responsabilità... No, ma perché la voce va e viene? Tommaso, si fermi un attimo, si mette in un posto dove prende, se vuole dire la sua, su. Ma va, vada al diavolo. Andrea da Milano. Ma perché vada al diavolo? Beh, vada al diavolo, ma arrabbio, si fermi, Tommaso, riprendiamolo, riprendiamolo. Sì, è come con te, è come con te, ti mando al diavolo tutte le volte che non prende. Andrea da Milano. Poveretto. Buonasera. Sì. Buonasera a tutti e a chi ci ascolta. Ma sì, semplicemente io ho ascoltato con molto interesse la puntata di ieri sera per la quale avevo chiamato e sì, volevo solo fare un semplice accostamento tra la pochezza morale di tutto quello che è successo nel Lazio, sì, e comunque sì, poi si espanderà tutto il Lazio, e dall'altra parte questa cosa di Sallusti, del fatto che uno viene giudicato, poi non va in galera, poi dopo gliela rimandano, cioè uno che arriva dall'esterno e che di colpo impara l'italiano e ascolta la TV e la radio, ma scappa da sto posto, non c'è possibilità. Cioè in che se, sentendo le vicende di cose, di Fiorito, eccetera, ma se uno vede Fiorito da una parte, poi dopo sente la sua puntata, comunque la si pensi sulla giustizia, sì, l'applicabilità e quant'altro, è una cosa, non è capibile. Io sto mi sta capitando di lavorare in Belgio, sì, ma mi fanno delle domande, gente che ha... Vabbè, adesso non ripeta le stesse cose, in Belgio mi dicono che in Italia... Io adesso non ci credo che le chiedono di Fiorito in Belgio? No, mi chiedono spiegazione di cosa sta succedendo, e io onestamente... Io stesso faccio fatica, cioè mi trovo nella condizione di non capire come fa una responsabile come la signora Polverini, sì, a non sapere con la gente con la quale collabora. Nessuno sa mai con chi collabora. Polverini, che tra l'altro, lei ha ragione su questo, Polverini tra l'altro oggi si è scoperto che è andata, magari sarà tutto normale, magari sarà stato previsto dalla sicurezza, non lo so, è andata in vacanza a Ponza, posto che io e Parenzo conosciamo bene, bene, è andata a Ponza un paio di giorni, oppure un giorno, non lo so, accompagnata da quattro amici con una moto vedetta dalla Guardia di Finanza. Ma questa magari può essere una prassi normale, non lo so. No, certo, fa parte. Io vado col traghetto. Io vado col traghetto quando vado a Ponza, D'Anzio, col traghetto. E così dovrebbero andare tutti i politici con il traghetto normale, a meno che non ci siano esigenze di sicurezza particolare. A nuoto dovrebbero andare. Ma che a nuoto, non dire stupidaggini. Ma questa qua mi sembra è per questo che le ho fatto riferimento all'estero, ma come non sei carico oggi, Qualcuno a nuoto dovrebbe. Allora? No, niente, è per questo che facevo riferimento all'estero, non per un vanto, ma perché mi capita di andare spesso all'estero e trovarmi in situazioni nelle quali non riesco a spiegare come fanno questi qui ad avere, non so cosa hanno moltiplicato da 1 milione di euro a 14 milioni di euro, ma cioè sono delle cose... 14, che... da 1 a 14, sì, bravo, da 1 a 14. Io prendo le notizie, le garantisco, sto molto in giro, non le leggo, le sento dalla radio... Si sono aumentati i contributi per i gruppi consiliari... Cruciani, mi ripeta la frase, si sono aumentati. Si sono aumentati, certo. Il concetto è proprio questo, che non c'è una... Io quando ho sentito Fiorito nelle varie interviste alla TV, sa che cosa ho pensato? Che ha pensato? Questo la fa franca, perché questo qui ha fatto delle cose... Lì siamo al top, però, lì siamo al top, lì siamo al top, però, con Fiorito siamo al top. Io voglio Fiorito editorialista della Zanzara ogni sera. Lo sto ingaggiando. Sto incensando. Un attimo solo, Andrea, ho capito benissimo. A che punto sono le trattative con Fiorito? Guarda, è stato ascoltato più volte, non dai magistrati ma dal sottoscritto, via messaggio, e credo che domani ci darà una risposta. Non condivido in alcun modo editorialmente la scelta di dare la parola al suo Fiorito, ma la trovo geniale a suo modo. Perché credo che non condividi? Ma non condividi cosa? Io voglio fare Fiorito, un Fiorito al giorno, leva l'ansia di torno, un Fiorito al giorno, leva, come dire, io ormai lo trovo un comico geniale, cioè siamo a livelli di comicità assoluta. A livello di comicità assoluta. Potremmo anche collegare il mostro di Marcinella, ad esempio. Ma che mostro di Marcinella? Intenderci. Marco da Pesaro, intanto. Marco da Pesaro. Di Marcinella in collegamento, così. Vabbè. Marco da Pesaro. Mi sentite? Sì, dica. Sì, niente, io volevo ricollegarmi alla situazione Sallusti, mi ha tolto le parole di bocca prima. Io sono dell'idea che un giornalista, come tutte le altre persone, deve rispondere delle proprie azioni, quindi se c'è la galera per determinati reati, tra virgolette, lo deve fare. In questo caso specifico, secondo me, è una cosa esagerata, però i giornalisti hanno un'arma che è micidiale. Se io dico che Parenzo ha violentato una donna e lo scrivo a caratteri cubitali su un giornale, quando magari questo non è vero, lei dice posso pagare anche con il carcere in alcuni momenti. Sì, sì, certo, perché il giornalista che scrive un'assurdità o che diffama pesantemente una persona, un conto è un'opinione, che io dico, secondo me il Nord si deve distaccare dall'Italia, quindi magari faccio un attacco alla Costituzione, però quella è una mia opinione, un conto è un attacco personale con le armi che ha un giornalista. Secondo me il carcere... da Putin. Ma che c'entra la Russia di Putin? Non c'entra nulla la Russia di Putin. Ma non c'entra, ma che c'entra i giornalisti? Non fare la solita difesa corporativa. Giusto le sanzioni, giusto essere cacciati a pedate nel sedere dall'ordine fino a quando c'è. Ma il carcere è roba da Russia di Putin. Rovinare una persona cos'è allora? Rovinare una persona cos'è? Rovinare una persona, cos'è rovinare una persona? Rovinare, intanto c'è il risarcimento economico, è prevista la radiazione dall'ordine nel caso, ma non dica stronzate, perché il carcere per i giornalisti esiste solo nei regimi, se le piace così. Sono stupidaggini quelli che dici, stupidaggini assolute, stupidaggini assolute. È così. Francesco dalla provincia di Siracusa. È così. Sì, buonasera Cruciani. E complimenti alla trasmissione. E prima di tutto volevo dire, per l'interesse nazionale superiore, mi auguro che ci sia questa riunione con Parenzo, perché la nazione ne ha bisogno. Per lo sta sentendo, lo sta sentendo in diretta. Lo anche, sente. Anche nonostante, anzi, le affermazioni di questa sera, che un po' sta sbroccando, soprattutto io sono uno che, dall'alto della mia laurea, dall'alto dei miei studi esteri, molto spesso mi capita di dover lavorare anche a Natale e anche bravo, a bravo, bravo, bravo, bravo. E francamente non mi va. Bravo, bravo, bravissimo. Ci sono delle festività superiori ed altre bravo, inferiori. Sono bravo, bravo, bravo. E l'Italia deve essere formata dai lavoratori e dobbiamo lavorare anche quando ci sono le festività. È un siamo problema laici. Suo. Quindi non vedo una contraddizione. Stai zitto un attimo, fai esprimere questo ascoltatore. Ma su. Che esprimere? È un problema suo, sono fatti suoi. Sì, va bene. Ma fallo esprimere tranquillamente, fallo esprimere, sta dicendo la sua, lavora anche durante le festività, è cattolico praticante, se ne fotte delle feste. A te non interessa, a lui sì, non a lui sì. Punto. Ma è anche questo il punto, non ti preoccupare, è anche questo. Francesco, prego. Nonostante ciò, voglio Parenzo alla Zanzara, va quindi bene. Spero che ci sia questa riunione. Sì. Non avevo chiamato per questo, però avevo chiamato sull'adozione dei omosessuali. Io ritengo che la domanda è molto spesso mal posta, vale a dire siete d'accordo o non siete d'accordo. Io ritengo che il problema sia: è pronta l'Italia? Ma chi se ne frega se l'Italia è pronta o no? No, Cruciani, si fa in altri paesi, tu, si fa in altri lei, paesi Cruciani, tranquillamente. No, a me non me ne frega niente di Italia è pronta, non è pronta. Chi lo decide? Che c'è un Cruciani, sondaggio? Chi lo decide? Mi dica una cosa, semplicemente io non faccio come i politici ben pagati che dicono che c'entra i politici ben no, pagati. No, non è adesso. Naturale, assolutamente. Quella proprio, anzi mi indigna che un politico porti avanti una tesi dicendo soltanto che il problema è non è naturale. Vabbè, secondo lei l'Italia non è pronta? Lo dica subito. Io dico che l'Italia, ma non l'Italia, i bambini, i compagni di classe. Ma i bambini, ma lei che fa l'interprete adottati. Dei bambini? Fa l'interprete dei bambini. Guardi, io vado a scuola ogni mattina ad accompagnare mia figlia. Ogni mattina accompagno mia figlia a scuola. Se vedessi una bambina, un bambino portato da due genitori omosessuali, non mi farebbe nessun effetto e credo non farebbe nessun effetto, perché Cruciani, molti dicono ma quanti Cruciani ci sono in Italia? Quanti Francesco dalla provincia di ma che vuol dire questo? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Come fa a giudicare lei? Si fa interprete dei bambini di tutta Italia che forse non vogliono due genitori omosessuali? Vabbè, è caduto. Sandro da Roma. Ciao, mi chiamo Sandro Sergola. Sì, non c'è bisogno che dice il cognome, però se lo vuole dire va bene. Perché? Non lo posso dire. Sì, lo può dire, vabbè, ma è inutile. Non è che lo vengono a prendere a casa. Come, scusa, Davide, che dici? Non è che lo vengono vengono a prendere a casa, chi se ne frega, può dire anche il cognome. Tanto. Sì, no, per carità, però insomma, siccome lo fanno in un'altra trasmissione, lo facevano in un'altra trasmissione, è una cosa orrenda, trovo. Giovanni Pinco Pallo, da eccetera. Il cognome, ma non è importante. Chi se ne frega. Vabbè, comunque, Sandro, dica. A parte questo discorso qui, sì. Io credo che Sallusti dovrebbe accendere un cielo alla Madonna, perché primo è brutto per una fame. Secondo, vabbè, lei è pazzo, lei è completamente pazzo, Sandro. Cioè. No, non so pazzo. Se che significa che è brutto, bello, come la fame? È bello, Sallustri, è bello. Ma che c'entra, no, che poi, è bello o brutto? Ma dico, è impazzito. No, dico, ma fammi finire. Si è ritrovato a fare il direttore del giornale, un posto che prima occupava Montanelli, ce lo scordiamo. E adesso è successo tutto questo casino, è diventato il migliore giornalista che c'è in Italia. Ma come si fa? Ma non è detto, ma chi l'ha detto che è diventato il migliore giornalista che c'è in Italia? Tutti ne parlano perché questa cosa ha creato un caso. Poi qualcuno dice ne sta approfittando o non ne sta approfittando. Però voglio farvi ascoltare, prima della pausa pubblicitaria, un'altra polemica. Voglio uscire da questa cosa di Sallusti per il momento, però naturalmente voi continuate a intervenire come volete. La vicenda che riguarda Nicole Minetti e le sue sfilate con Parà, la casa che produce Intimo, eccetera, eccetera. Durante una trasmissione su M2O l'altro giorno, la radio del gruppo Repubblica, la Clerici, caro Parenzo, la Clerici si è scagliata contro la Minetti, ma anche contro chi le ha consentito di sfilare, credo, per più di 100.000 euro. Puro e semplice e inutile moralismo. No, no. Ah, no, dici no. No, doveva farlo gratis, perché... Ma dire... che gratis? Ma non rompere le balle con queste cose. Gratis che cosa? Perché oppure doveva farlo gratis? Solo quello. Ma quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso. È immorale. Immorale? Sentiamo la Clerici. Sentiamo la Clerici. È immorale che siccome non sta facendo... Siccome in che un consigliere regionale faccia anche le sfilate. Va bene, d'accordo. Allora, intanto sono indignata non tanto da lei, perché posso capire, cioè lei si trova in una posizione in cui, siccome vuole fare la soubrette ma gli è capitato di fare la politica, è giusto che una giochi le sue carte, no? Sì. A un momento. La cosa che a me fa inorridire è che noi siamo un paese in cui i fotografi e i giornali danno risalto a queste persone quasi fossero delle vere star. Allora, giustamente qualcuno risponde: io potrei indignarmi che la Clerici faccia degli show sfruttando i bambini che cantano, caro Parenzo. No, non è una stupidaggine. Qualcuno inorridisce perché la Minetti è in passerella. Ma di che stiamo parlando? Perché è in passerella pagata, perché Gabriele Albertini, nostro amico già sindaco di Milano. Ma che c'entra Albertini? Ma stai paragonando due cose che non sono paragonabili. Gratis. Vabbè, non fare sgarbi adesso che ripete le parole 40 volte. No, però, perché così ti entra in testa, ripetita Juvent. Sì. Però la signora Minetti scelga quel che vuol fare, mi pare che gli attributi li abbia per fare queste sfilate. Le foto le ho salvate tutte sul desktop e ogni mattina quando mi sveglio depresso. Ma non è vero, non guardo, è vero, certo non è vero. Non è vero. Cioè, hai altre foto sul desktop, guardo, dai, su, e altre donne sul desktop. Guardo, ti arriva la quella per l'informazione. Guardo, sì, la foto della Minetti. Vergognoso che abbia preso quei soldi, sì, perché il doppio lavoro non si fa. Allora, girerebbe un sondaggio, questo me lo suggerisce non leggerlo, girerebbe un sondaggio nei piani alti del Partito Democratico, delle primarie, sondaggio sorprendente ma non troppo, Renzi 35,1, Bersani 34,7. Beh, insomma, andiamo, Battaglia aperta. Voglio capire se ha Gianluigi Paragone, conduttore dell'Ultima Parola, ogni venerdì, Rai 2, dopo le 23, ma non troppo tardi, l'unico conduttore che canta, e non se ne vergogna, canta pure discretamente. Ma che c'entra adesso queste cariche? Devi sempre dire le cariche delle persone, ma chi se ne frega? Vice direttore di rete, vabbè. Vabbè, comunque. Gianluigi Paragone, voglio capire, ciao Gianluigi. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao. Se credi a questi sondaggi, per chi fa il tifo? Per nessuno, immagino, però se dovesse tra Bersani e Renzi, chi ti piace di più? Preferirei Bersani. Ma lo sapevo, Renzi, lo sapevo, no, lo Renzi sapevo. Ma Renzi è bollicine, proprio acqua gasata, non c'è niente di Renzi. Lo sai che Gianluigi mi sta simpatico, però ultimamente penso che politicamente non abbiamo più nulla in comune. Critica l'euro, critica Monti, critica Monti a spada tratta. È diventato un conduttore che dice la sua in maniera aperta, e questo devo dire che alla Rai è quasi una novità assoluta, oltre alla vicenda Santoro naturalmente, è quasi una novità assoluta, perché non c'è mai stato un caso alla Rai, un caso alla Rai dopo Santoro, di un conduttore importante di Rai 2 che dice come... Vespa si sbilancia sempre, è evidente, no? Non vedi come si sbilancia? Quasi sempre, sì. Si sbilancia dal punto di vista fisico, cade sui plastici, dici te. Cioè, esatto, si sbilancia molto. Non c'è stato un caso, proprio uno può apprezzarlo o non apprezzarlo, un caso di un conduttore che prende delle posizioni, come dire, che esprime le sue opinioni, certo, guardando anche al pubblico, perché questo è importante, guardando anche al pubblico, a quello che è l'umore della gente, prende posizione su, sì, soprattutto sul Presidente del Consiglio in carica. Quanti problemi hai alla Rai per essere un po' anti-Monti? E dico un po', anti-Monti. Hai dei problemi, Gianluigi? No, devo dire la verità, non ne ho. Pensavo di averne di più, l'avevo anche messo in preventivo, invece devo dire la verità che per ora nessuno in queste due puntate mi ha fatto appunti. Ma prima, a parte queste due puntate, prima lo sappiamo, con la precedente gestione. No, da quando c'è Monti, cioè da quasi un anno, cioè il fatto che la tua trasmissione, L'ultima parola, su Rai 2 si è trasformata, perché lo hai scelto tu, anche, non solo, perché poi si confrontano diverse opinioni, in una tribuna abbastanza chiara di opposizione alle politiche del governo Monti, all'Europa, Il giornalista fa. Ma sì, ma certo che fa il giornalista, io non sto mettendo in discussione questo. Ecco, hai avuto problemi dal governo Monti, cioè qualcuno si è lamentato? No, non vengono ed è anche comprensibile. Non vengono ed è anche comprensibile. Preferiscono non venire, però devo ammettere che non c'è stato mai alcun tentativo di censurare nei servizi, nella discussione. Scusa Gianluigi, da questo punto di vista, si può dire, giustamente suggerisce Parenzo, si può dire che il governo Monti, la gestione della RAI del governo Monti è più aperta rispetto a quella del governo Berlusconi? Ma dimmelo chiaramente, su. Sì, ti posso dire. Ci sono di meno intromissioni, meno scocciature. Meno intromissioni, nel senso che finora non c'è mai stato nessun consigliere d'amministrazione che mi ha messo i bastoni tra le ruote. Cosa che prima succedeva. Beh, ma anche la tua lo sappiamo, sì, quotidianamente. Quotidianamente. Adesso, no, io conosco molti amici che lavorano nella redazione. Si potrebbe dire allora, viva il Monti bis, magari ci fosse un Monti bis. Oggi ha annunciato Monti, come sai, un po', in maniera un po' contraddittoria, devo dire, rispetto Il segreto di Pulcinella era, lo sapevamo tutti, che Monti sarebbe stato riconfermato senza passare dalla casella della candidatura. Viene portato a spasso in giro come una pellegrina, ho sempre detto, piace in un momento in cui la politica non ha più nulla da dire, e ritorniamo al discorso di Renzi di prima. Però è abbastanza curiosa questa cosa qui, io la voglio criticare, mi metto un po' nei panni di Paragone questa volta, perché adesso dice, insomma, non mi candido, però se serve torno al servizio del paese, e si trincera dietro questa cosa dell'essere senatore a vita, che devo dirla chiaramente è una minchiata, perché se uno vuole presentarsi alle elezioni si dimette da senatore a vita e si presenta alle elezioni, non è che per lui sia la carica, no, definitiva, eccetera eccetera. Se uno si vuole presentare alle elezioni, perché la gente si deve abituare che bisogna prendere i voti, anche il signor Monti, se vuole governare, non è che può dire vengo dopo se me lo chiedono, deve prendere i voti, non è che i voti fanno schifo, bisogna... Ma Giuseppe, nella struttura di Monti e di tutti questi, non c'è l'idea di prendere voti, non esiste la minima idea di andare a confrontarsi con il popolo. Lo so, però la politica è fatta per prendere i voti, anche in Grecia. Quante volte abbiamo visto Monti andare, che ne so, dentro una fabbrica piuttosto dentro un distretto industriale tipo del Veneto o della Lombardia, dove c'è una crisi nerissima? Vabbè, quella è un'altra cosa, però, Gianluigi, questo no, è diverso. No, invece secondo me, tanto più un professore, tanto più una persona che è esponente di mondi finanziari, avrebbe dovuto, secondo me, confrontarsi con l'economia reale, altrimenti clienti, che ricette puoi pensare di mettere in piedi, di allestire per rilanciare l'economia reale? Perché però scusami, bello questo paragone, ma questa è la vostra, vena operaista, che non so perché ha coinvolto pure Gianluigi Paragone, uomo che... No, io ti dico, nei capannoni non c'è un discorso operaista, ma tu non ci sei mai andato, manco tu nei capannoni, Gianluigi, no, dai, guarda, ho fatto cronaca dentro i capannoni, ce l'ho sotto casa, io attraverso la strada nel mio Varesotto e sto dentro i capannoni. Però scusami, io un presidente del consiglio che va dentro i capannoni per fare la sceneggiata di quelli che è il presidente operaio di Berlusconi, è una buffonata questa cosa qui. Il presidente del consiglio deve stare a studiare le cose, invece, a farsi consigliare. E invece no, perché per esempio anche Tremonti, che poi ha detto tutto, però Tremonti si è confrontato con... Sì, mo adesso andava nei capannoni Tremonti, su dai. Ha incontrato il popolo delle partite IVA, ha incontrato i piccoli imprenditori. Ma non c'è bisogno di incontrarli, bisogna capire per capire i problemi della gente. Perché devi andare, allora Giuseppe, perché devi andare nel mondo finanziario? Perché devi interloquire con... Perché quelli li devi incontrare direttamente, perché ci sono delle relazioni che bisogna tenere. Allora vai a incontrare anche la delegazione dei piccoli imprenditori. Senti, allora devi incontrare Marchionne. Ma come ne devi incontrare? Perché devi incontrare Marchionne? Che c'entra? Quello è importante. Ma infatti, anche secondo me, incontrare Marchionne non è che sia una cosa. Però quindi ha già commesso due errori, secondo il mio punto di vista. Vabbè, ma errori. È andato a incontrare ripetutamente gli ambienti finanziari. Ha fatto una riforma delle pensioni che nessuno, a parte la vicenda dei soldati, ha fatto una riforma delle pensioni che ci ha salvato il culo. La riforma delle pensioni, le pensioni sono state toccate praticamente da ogni governo e ormai è privo di un punto di equilibrio nel mondo pensionistico. Comunque, una contraddizione c'è ed è questa. Sentite, lo ricostruisce Claudio Cerasa, che cosa diceva Monti febbraio e settembre di quest'anno. Posso assicurare, 25 febbraio 2012, posso assicurare che molto presto il mio temporaneo incarico al governo verrà a scadenza e quindi farò in tempo a completare il quadriennio per il quale ero stato nominato presidente di questa università. E Mario Monti, 25 febbraio 2012. Non mi presenterò alle elezioni, non c'è bisogno perché sono senatore a vita, ma sarò là. E se si creano circostanze per cui potrò dare un aiuto dopo le elezioni, non precludo nulla. Questo Mario Monti, oggi, 27 settembre 2012. No. Come cambiano oggi, le cose? Oggi dove? Oggi dove? Questo non è un dettaglio. Non lo so, dove? Ma è un uomo lo dice in America. Lo dice in America. Lo vabbè. Dice negli ambienti che vuole tranquillizzare. Invece Berlusconi, andiamo a Berlusconi. Intanto, cantami qualcosa, Gianluigi, cantami qualcosa, dai. Che mi canti? quello che canterai venerdì domani canto a domani, muso duro vai fammi qualcosa dai, cioè, te la senti? Senza chitarra non ce la faccio, dai, su, come senza chitarra? Senza chitarra sei? Non senza ce l'hai, chitarra, non ce l'hai sotto mano lì? No ma come no. Fa a muso duro? Fammi uno stornello, dai. Qual è a muso? Affronterò la vita a muso duro, quella di Bertoli. Berto, io sono ignorante, vai. Le e affronterò la vita a muso duro, sono quasi intonato. La vita a muso duro. Dopo la pubblicità ti metto. Adesso la mettiamo, questa base 800 24 00 24. Gianluigi Paragone con noi, conduttore dell'Ultima Parola su Rai 2. Ne avete di pubblicità, ragazzi? Meno male, abbiamo di pubblicità perché portiamo quattrini qua, cioè grande ascolto. Allora, Gianluigi, quanto sul mercato? Niente finanziamento pubblico come alcuni giornali. Quella la Rai, tra l'altro, Paragone, altro che finanziamento pubblico, è il pubblico. Insomma... Ah, il canone lo aboliamo, Paragone, o no, a proposito? Bisognerebbe abolirlo il canone. No, adesso con gli investimenti che stai facendo va recuperato. Ma una volta dicevi che andava abolito, me lo ricordo. È un'uomo azienda. Una volta dicevi che andava abolito. Sai che devo ammettere una cosa, che sulla Rai avevo tanti pregiudizi. Poi ho conosciuto una Rai poi da dentro. Poi t'hanno assunto e sono spariti tutti. No, poi mi hanno assunto e ho conosciuto una Rai dentro che non era proprio come pensavo. Ti giuro, Gianluigi, che sono pronto anch'io a cambiare il mio giudizio sulla Rai appena mi assumono, te lo giuro. No, vabbè, adesso sei ridicolo, guarda, dici così. L'altro giorno, credo ieri addirittura, il nuovo direttore generale Rai Gubitosi ha detto che se dovessi lavorare... No, pronuncialo bene, non è Gubitosi. Gubitosi, come devo pronunciarlo? Ma perché con rispetto? Ma come una persona normale, un manager normale. Signor Gubitosi ha detto, davanti credo alla commissione di vigilanza, non mi ricordo dove, ci sono tutte queste strutture in Italia assurde che andrebbero cancellate con un tratto di penna, ha detto... che se lui dovesse lavorare alla Rai con uno che non è nominato dalla politica, probabilmente non lavorerebbe con nessuno. Io l'ho trovata una frase bellissima, numero uno. Ma è vero, Paragone? Beh, sai come la penso, l'ho detto pubblicamente, fin domani dalla mia assunzione. Quindi. No, vabbè, ho capito, ma ha ragione Gubitosi a dire questo? Beh, parte sì, poi però ha detto un po' di cose, poi ha detto cari giornalisti lavorate liberamente, tranquilli dalla politica, io lo prendo in parola. Dunque meglio Gubitosi da questo punto di vista della lei e di quelli prima? Gubitosi viene completamente dall'esterno, la lei era ed è una donna che viene dall'azienda, quindi... Cioè, tu ti fidi delle nomine, insomma, voglio dire, si respira un'altra aria rispetto al governo Berlusconi, questo l'hai già detto prima, ribadiscilo con forza che fa bene, su. Sì, a me questa Rai piace, questa Rai mi sto trovando bene. Si respira un'altra aria, insomma, no? O no? Sì, te l'ho detto. Senti una cosa, ma vuoi ancora fare la prima serata? Vuoi ancora fare la prima serata su Rai 2? No, perché sta diventando un'isteria soprattutto degli addetti ai lavori. Cioè? Sta roba qua che per forza devi andare in prima serata, altrimenti è come se non esistessi. Cioè, chi è isterico? Vianello è isterico? No, dico molti opinionisti che scrivevano ma Rai 2 non ha la prima serata, non ha l'informazione. Ma veramente l'informazione ce l'abbiamo, poi non sta scritto da nessuna parte che per forza giovedì sera in prima serata ci debba andare un contenitore di informazioni. No, vabbè, d'accordo, cioè non è necessario che si faccia l'informazione in prima serata, dici? Per Rai 2 non è fondamentale. Non è fondamentale per Rai 2, beh, questa è una cosa nuova. Cioè, tu non ritieni fondamentale che nel posto che fu di Santoro, eccetera, cioè posto, insomma, adesso lo chiamo così, anche se i posti per me non esistono. In quella collocazione là può anche andare bene Pechino Express, va bene? O una cosa simile, al posto dell'informazione. Cioè, non è fondamentale. Non è che al posto dell'informazione, no, io quello che contesto è che il giovedì sera si debba fare per forza la prima serata di. No, io sono d'accordo con te. Non perché il lunedì sera. Non perché il mercoledì sera, cioè no, il giovedì bisogna fare per forza il contenitore di informazione al posto di Santoro. No, no, ma ho capito, ma è vero o no, questo ormai sei qui in diretta, è vero o no che tu Andrea Vianello come conduttore di un programma appunto di informazione prima serata non lo volevi? Ma no, non ho mai detto. Anche perché il contenitore di informazione che farei io sicuramente sarebbe diverso. No, non c'è dubbio, però è vero che non ti andava a genio questa cosa perché la trovavi in un'invasione di campo da Rai 3 a Rai 2? Me la dovevano spiegare, questo sì. Cioè la trovavi in un'invasione di campo? Glielo dovevano spiegare. No, non è un'invasione di campo, se nel mercato Andrea Vianello vale e vale, però mi devo spiegare per quale motivo da Rai 3 deve venire per forza su Rai 2. Cioè una cosa, uno sgarbo, un po' uno sgarbo era. O comunque... no, il mercato non prevede né sgarbi né altro. E come lo devono spiegare? Lo devono spiegare col fatto che decidono, qualcuno decide. Ho capito, però lui la trasmissione su Rai 3 ce l'ha. Perché viene a rompere le scatole qui a Rai 2, dici tu? No, mi devono spiegare la ratio editoriale. La ratio editoriale. Cioè, i palinsesti non si fanno a caso, si fanno secondo una ratio. E questa cosa non avrebbe... ratio di spostare un conto è, non lo so, ma avessero detto, Vianello è libero sul mercato, viene su Rai 2, benissimo, esattamente come, che ne so, ho capito. Piroso è libero sul mercato, dicono che Piroso può valere sul mercato, c'è libera la prima serata del lunedì o del martedì o mercoledì o del giovedì. Va bene, una cosa è Piroso che è libero del mercato. Non capivo il motivo per cui si dovesse spostare Andrea Vianello, bravissimo, da Rai 3 a Rai 2. Cioè Piroso sarebbe più logico perché non è sul mercato, dice paragone, tu sei scarso, Piroso è più bravo di te. Va bene, lo accetto. Qualcuno può dire Vianello. Misuriamo tutti sul mercato. Qualcuno può dire Vianello è più bravo di te. Qualcuno può pensare Vianello. Sicuramente Vianello è più bravo di me, però no, c'è qualcuno può pensare ma non è a spasso, capito? No, ma ho capito, non è a spasso. Allora ti aspetto Andrea su Rai 2 prima serata, questo è bellissimo. Perché devo dire ti aspetto su non Rai ce 2, lo vuole da vice direttore di Rai 2, portaci alla Rai. Ma io non voglio andare alla Rai, ma perché portaci alla Rai? Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Da vice direttore di Rai 2 non voglio Vianello in prima serata. Facciamo così, un po' più forte. Vabbè, traffico, dai, torniamo subito per la conclusione. 800-24-00-24, anche per farci cantare sta canzone che ce la siamo trascinata troppo, e anche per un giudizio su Berlusconi, che continua a spararne di tutti i colori oggi alla presentazione del libro di Brunetta, una cosa incredibile, ha detto delle cose inenarrabili, ve le leggo in anteprima, prima dell'interruzione. Se me lo chiedono, no, che cos'è questa roba? No, vabbè, lo dico dopo. È la Z. zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. Eccoci qui. E allora, e allora Berlusconi, che ha detto Berlusconi? Mandatemi questo audio, su Berlusconi. C'è una seconda soluzione possibile, è che la Germania esca dall'euro, non sarebbe una tragedia, anzi c'è una corrente finanziaria tedesca che propugna questa soluzione. Chiusi, stringo il mio orsetto. Poi dice euro che imbroglio. Questo è molto paragoniano. Germania, Session, niente drammi. L'avete sentito? La crisi non è colpa di Monti, ma della moneta unica introdotta senza una banca centrale. Ancora questa storia, sì, lo sappiamo. Non mi pare che ci fossero state grandi proteste anche da parte di Berlusconi anni fa. Vabbè, poi attacca il fisco. Siamo terrorizzati da uno stato di polizia, dalla tracciabilità alla guardia di finanza. Uno stato di polizia tributaria e finito con testa irresponsabile. Ora, al di là delle cose giuste e sbagliate che ha detto, quello ognuno giudica, ma è credibile che ancora sulla scena ci sia Berlusconi in paragone? No, perché ha sbagliato. Voglio dire, lui non può contestare l'euro e l'Europa, perché ha votato il Trattato di Lisbona, ha votato il Fiscal Compact, ha votato tutto quello che il governo Monti ultimamente gli ha proposto sull'Europa, tra l'altro vincolando sempre di più l'Italia. Non può dirlo, tra l'altro parla proprio lui che si dimise per lo spread, quindi sì, si arrese già alle logiche europeiste, quindi purtroppo Berlusconi ha fallito. Dispiace, perché molte persone, tra cui il sottoscritto, credette alla rivoluzione liberale di Berlusconi. Ma tu l'hai votato? È noto che io ho votato il centrodestra. Ma l'hai votato proprio lui o hai sempre votato Lega? Ma no, io ho splittato il voto. No? Qualche volta hai votato Senato, PDL? Qualche no, volta. Al Senato votavo PDL e alla Camera votavo Lega. E la canzone, mi mandate la base per favore? Eh? La base, vai. Canterò le mie canzoni per la strada. La bassa. Ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza padre e senza spada. Con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro. Beh, è stato con noi Gianluigi Paragone, che canterà questa canzone domani. Meglio. A che ora, Gianluigi? 23.30? Domani alle 23.30. Chi c'è domani? Dimmi una persona. Manco, non te lo ricordi nemmeno. No, perché sai che i politici servono e non servono. Ma invitaci una volta. Ma che sì, no, ma perché ti devi far invitare? Non ci inviti mai, invitaci. Ma perché? Perché io registro alle 18 e voi siete in... Mamma mia, sposta tutto, ma sposta le quest'uomo, 20. Quest'uomo è veramente il prototipo del lecchino. Cioè, proprio se c'è uno dice un lecchino, questo è David Parenzo. Ogni volta ma io scherzo, lo dico per lui. Vabbè. Rai, ti abbraccio, ciao Gianluigi, ciao. Un abbraccio, ciao. 20 e 23, andiamo a Berlusconi. Bravo, Paragone alla fine. Berlusconi che fa una gaffa e chiama Ferrara Giovanni e non Giuliano. Sentiamo, Andiamo. È un piacere sempre assoluto ascoltare Giovanni Ferrara, che io considero la più Giuliano, io sono fuori dalla politica, quindi posso anche scordare. Beh, più che fuori dalla politica, fuori di testa, diciamo, no? Fuori di melone. Tra l'altro Giovanni Ferrara è il fratello, se non sbaglio, eh? Il fratello di Giuliano si chiama Giovanni, non credo che Berlusconi pensasse a quello, Prima ospite normale della trasmissione, questo Paragone stasera. Ma perché? Chi hai visto? Il mostro di Marzinelle stasera? Non ho capito. Chi è? No, lo stupratore del Circeo? Aperto, chi c'è? No, per carità, abbiamo aperto il consiglio. Ce n'era un altro che doveva intervenire, ma non abbiamo trovato per telefono. Magari domani lo rincorriamo. E poi te lo dico in privato. Uno dei grandi mostri della politica italiana. Ma domani lo recuperiamo. Una bravissima persona, una persona specchiata, specchiatissima. Con tutti i ricercatori scappati all'estero. Dai, fammi Taormina, fammi Taormina, ti prego. Hai sentito oggi Taormina? Ma guarda, sono avvenute a questa zanzara delle cose terribili. Che cose terribili? Ho già impugnato il contratto di Parenzo, un contratto capestro. Facciamo chiudere tutto, mettere sotto sequestro l'intera azienda. Ma che c'entra l'azienda, scusa? Cosa gravissimo, c'entra? Abbiamo le prove, quello che avete fatto è gravissimo. Ma non abbiamo fatto una cosa gravissima. E vi dovete vergognare. Abbiamo protestato. annullato perché un signore si assenta per due giorni da trasmissione per andare a festeggiare il digiuno mormone. Sei come i mormoni, con tutto il rispetto per i mormoni. Dinanzi al tribunale. Ma quale tribunale? Abbiamo già le registrazioni di quello che è avvenuto. Ma registrazioni di cosa? Notizia criminis di quello che è avvenuto. È fiorito innocente. Chi è questo qua? Ior? Come si chiama? Come lo Ior? Ior da Verona? Come si chiama questo signore? Di tutto opere religiose. Signor Ior? Sì, buonasera. Buonasera, ma lei si chiama Ior, scusi? Sì, nome, Ior, Guglielmi cognome. No, ma scusi, come fa uno a chiamarsi Ior? Che vuol dire? Perché mio papà voleva nomi corti e quindi ha trovato un nome... Ior, nome corto, Ior. Allora, sì. Suo padre aveva qualche problema, scusi se glielo dico, con vero, tutto il rispetto, però... Ma che vuol dire Ior, scusi, che vuol dire Ior? Ior vuol dire Ior, non lo so cosa vuol dire. Ma cosa vuol dire Ior? Consultate un attimo internet, adesso io non ho il tempo. Si fa a chiamare Ior? Adesso, ma francamente, come si fa uno a chiamarsi Giuseppe? Io non lo so. Ma dai, su, David, a parte anche su David si potrebbe ragionare, però Ior. Uno si può chiamare anche Kemal, come Kemal Ataturk. Capito, ma uno che nasce a... Lei, scusi, nasce a Verona, no? È nato a Verona o no? È nato a Verona da genitori italiani? Certo, sì. Uno genitore italiano che chiama una persona Ior andrebbe, mi scusi, sempre detto con il massimo rispetto per le autorità civili, politiche e militari, andrebbe impiccato. Abbia pazienza. Uno che chiama un figlio Ior, ma lo condanna all'infelicità tutta la vita. Io ho un amico carissimo di Roma che ci sta ascoltando, che fa l'autore televisivo, che si chiama Gamberutti di cognome e di nome si chiama all'anagrafe Valdo Vietnam Rosso. Vabbè, ma quello è un cretino, vabbè, ho capito. Quello è semplicemente un cretino. Quello è semplicemente, non lui, poveraccio, e chi gli ha dato quel nome è semplicemente un cretino. Permetti? Valdo è il nome Vietnam Rosso, vabbè, ma quello andrebbe arrestato. Ma come ti permetti? L'arresto immediato, ci vorrebbe. Ma io non capisco ancora perché non sono venuti sotto il sole 24 ore e sono andati una bella legnata le volte. Ma andrebbe arrestato chi ha chiamato quello Baldo, Rosso, Vietnam, quello che diavolo è. Che andrebbe arrestato. Perché sei anche una cosa incredibile. Vabbè. L'hai preso il gelato? Signor Ior, io ho anche difficoltà a pronunciare questo io. Signor Ior. Non cambi, Guglielmi. Vabbè, comunque, dica. Vabbè. No, Cruciani, io ho un problema per quello che l'ho chiamata rapidamente. Cerco di essere sinteticissimo. Che problema ha? Perché io all'inizio della vostra trasmissione, non questa volta, da anni vi seguo perché mi capita che mi trovo in macchina a quell'ora, no? E in effetti mi irritava parecchio perché per il suo modo di fare. E anche quando diceva, ah, ma se non vi piace la trasmissione chiudete, io tante volte ho chiuso. Invece ultimamente, questo è uno dei motivi per cui la chiamo, devo dire che mi trovo abbastanza in sintonia con quello che lei sta facendo, come anche riesce con le domande a arrivare al dunque dei suoi ospiti. Allora la mia domanda era, ma siccome io credo di essere una persona abbastanza seria, anche spiritosa, ma anche seria. Seria che vuol dire? La mia domanda era, ma è Cruciani che sta diventando come me o sono io che sto diventando come Cruciani? Ma è un po' bizzarro, mi sembra strano adesso. No, le chiedo le spoglio. Ma non lo so, ma lei sta parlando di cose generiche, mi dica un episodio, una cosa. Arrivo alla cosa specifica, è Marchionne, se ricordo bene, qualche giorno fa, ha detto, io rispetto il primo articolo della Costituzione italiana perché io lavoro, il primo articolo della Costituzione italiana è la Repubblica è fondata sul lavoro, che per me è una più grande stupidata di tutte, perché una cosa non può essere fondata sul lavoro, una cosa può essere fondata solo sul riposo, perché se uno cammina, per portare avanti il piede destro deve avere il piede sinistro immobile e destro libero di andare avanti, quindi dovremmo dire riscrivere la Costituzione. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul riposo. Ora perché dico questo e poi la domanda per lei? No però scusi, io lei è troppo lungo, già mi sono fatto due palle così, cioè è lunghissimo. Un attimo, ho la borsa, però poi mi sia sintetico perché io mi annoio facilmente. Mi sia sintetico, faccio una domanda sintetica, chiara, non è che dice la Repubblica fondata sul lavoro, adesso fra poco arriva la domanda. Già la gente si è annoiata, ha già cambiato canale, ha già cambiato frequenza. Io la combatto. Eccoci qui, 800240024. Il nome Ior dell'ascoltatore che chiama da Verona deriva dall'ebraico, manco lo sa Parenzo, dall'ebraico Ior e Dan, e significa scorre presso Dan, antica città biblica. Ior, lo sapeva lei? Sì, ma qualcuno mi aveva detto, ma non ma come qualcuno così. Le aveva detto? Lei ma manco sa cosa significa il suo nome, ma io... Andiamo al dunque o che? Vabbè, ma al dunque mi dica qual è il dunque, già dunque è troppo lungo. Il dunque il nome, non volevo provare a dare un suggerimento, una proposta soprattutto, perché di nuovo, no, io mi volevo chiederle, ma lei quando sta facendo la trasmissione dove porta alla luce tutti i problemi che l'Italia comincia ad avere, che avrà e che saranno probabilmente anche sempre di più? Lo sa lei per esempio che da quando è stata fondata l'ONU ci sono state 255 guerre che l'ONU non vabbè, è riuscita a risolvere? E con l'ONU le 55 guerre direi che possiamo passare no, oltre. No, caro Iorio, scusa, abbia pazienza. L'ONU e 55 guerre, su. Il problema è che risolviamo il problema di danni, è questo che sto dicendo. Sì, vabbè. Daniele da Massa Carrara, grazie Iorio. Daniele da Massa Carrara. Buonasera signor Cruciani. Vada. Complimenti per la trasmissione. Volevo dire al signor Parenzo cosa vuol dire opinione quando si riporta una notizia totalmente falsa. Cioè, bravo. Non lo deve spiegare, questo è il giornalismo italiano. Cioè, sta dicendo Daniele che in quel caso io, non è l'opinione riportare una notizia totalmente falsa. Perché come è stato il caso di Dreyfus. Una notizia falsa, non è vero che la bambina voleva abortire, non è vero che i genitori che non voleva abortire, non è vero che i genitori non la volevano far abortire. La cosa era, è totalmente travolta nell'articolo del giornale. Appunto, e dov'è l'opinione? No, io lei ha detto, ha prologato che era opinione, non si può condannare una persona per un'opinione. Ma dov'è l'opinione? No, quando riporto una... detto per i reati, per le notizie, per i reati d'opinione, cioè quel giornalismo di opinione, che non è il caso di Farina, che in alcuni articoli spesso esprime opinioni, in quello dava notizie false, quindi ben allora più grave, non c'è male dubbio. Io. No, no, non c'è dubbio. Un conto sono i cosiddetti reati di opinione, cioè sappiamo perfettamente cosa. Un conto sono articoli di cronaca completamente con notizie false, che è il caso in oggetto. Sì, però scusa, adesso non restiamo totalmente falsa. Allora cioè. Io ripeto, bravo, io certo. Ripeto, io ripeto, io ripeto, perché forse non è chiaro, voglio ripetere quello che ho detto prima. Qui siamo in presenza di un'altra questione, al di là del merito che è abbastanza chiaro, la notizia era falsa e sulla base di questa notizia falsa Dreyfus, cioè Farina, ha scritto un articolo nel 2007 in cui dava dell'assassino al giudice, al medico e ai parenti della, e ai genitori della ragazza. Noi però, io lo ripeto, non siamo cittadini diversi, siamo come gli altri. Per un articolo si può anche finire in galera, secondo me. Le parole possono uccidere, possono distruggere le persone. No all'impunità totale, no alla casta dei giornalisti. Quella che qui abbiamo assistito in queste ore, in questi giorni, è una solidarietà patetica. Una solidarietà patetica. Non è un problema di casta, è un problema di sanzione. No, è un problema di casta. È un problema di casta. È una sanzione eccessiva il carcere. Nella Russia di Putin c'è il carcere. È una sanzione... Non puoi sostenere che uno è un assassino e pensare di cavartela. Le parole sono le parole. Fare una vecchietta per strada e scrivere una fregnaccia. Chi scrive una fregnaccia deve essere radiato dall'ordine. Sì, ma lascia perdere adesso queste cose qui. Il problema è che tu non finisci comunque in galera. Non finisci mai in galera se hai una prima condanna. Certo, se tu per 5 volte hai dato l'assassino a qualcuno e c'è un cumulo di condanne, forse è meglio che qualche giorno di galera. Insomma, se sei abituato a dare dell'assassino a qualcuno e quello non è un assassino, forse qualche giorno di galera è meglio che te li fai o no? Ripeto, non c'è paese civile al mondo. Ma non è vero, ma dai su, ma non... mamma mia. Se non nella Russia di Putin, che evidentemente ti piace tanto. Ma non mi piace non so la Russia di Putin. Non so cosa ti è successo in questi due giorni. Evidentemente ti è successo qualcosa, avrai qualche amica russa, non lo so, ti sarà successo qualcosa. L'amica russa ce l'hai tu, l'amica russa ce l'hai tu. Ma non ne ho idea. Però il carcere esiste in Uganda, ecco, in Uganda... Ma quale Uganda? Quale Uganda? Amin Dada, probabilmente. Proviamo a chiamare una persona, dai. Proviamo a chiamare una persona, che è meglio. Intanto Domenico dalla provincia di Lodi. Sì, buonasera. Io chiamavo per il Yom Kippur di Parenzo. Bravo. Volevo semplicemente dire che le sue feste se le può fare nel fine settimana. Pronto? Pronto? Pronto? Yeah. Signor Piazzalunga? Sì, chi parla? Salve, sono Giuseppe Cruciani, Radio 24. Buonasera. La disturbo? Guardi, sono un attimo... Le posso fare un paio di domande sulla vicenda Minetti? Ma no, No, perché oggi c'è stata la Clerici che ha criticato questa cosa, ha detto che è una cosa orripilante, la sfilata. Volevo da lei una replica a questa cosa qui. Io ho difeso questa sua scelta di fare sfilare la Minetti, glielo dico subito. Io non ho affatto trovato una cosa immorale, come dicono molti. Io lo premetto proprio papale, glielo dico. Volevo capire come risponde a tutte queste critiche. Guardi, per me non c'è nessun caso Minetti, per me c'è un caso di politica, c'è un caso strumentalizzato. Sì. Quindi non so. Ma chi è che, voglio dire, la cosa che voglio, che cos'è che le ha dato più fastidio delle critiche che ha ricevuto per avere portato la Minetti a sfilare? La cattiveria che c'è nella gente. Sì. È la cosa che mi ha più non disturbato, però non me l'aspettavo tanta cattiveria, ma la cattiveria è quella dentro proprio. Ma in particolare da parte di chi? Anche di suoi colleghi? Ma no, io i miei colleghi proprio non li ho sentiti. La Clerici che ha detto che è una cosa orripilante, le fa inorridire vedere la Minetti sulla passerella, che dice? Beh, lì è una considerazione della signora Clerici. Beh, questo non c'è dubbio, questa è la palina. Io guardi, non mi permetto di commentare quello che dice soprattutto un personaggio pubblico, perché la signora Clerici io non sono conosciuto, sono un imprenditore. Sì. e basta. Sì. Lei ha fatto un commento positivo, cioè perlomeno ha detto qualcosa la signora Clerici. Sì, no, certo, ha fatto un commento negativo, anzi, cioè ha detto che è una cosa orribile vedere quella sfilata lì, la Minetti che sfila, che non comprerà più le robe di Parà, eccetera, eccetera. Io rispetto il pensiero della signora Clerici, per amor del cielo. Lei rispetti però il nostro, cioè che... No. Poi mi dicono che si ha detto sulla questione del compenso e tutto. Sì. Così, ma siamo matti. Che ha detto che era una cifra esorbitante. 110.000 euro, è vero o no? Ma non è vero, ma non può essere vero. Quanto è stata pagata la Minetti? Guardi, mi hanno chiesto di non comunicarlo, ma le assicuro che è una cifra che non farebbe scandalizzare nessuno, veramente. Cioè tipo 30.000, sotto 50.000 euro? Ma chi li ha questi soldi oggi, mi scusi? Ma non lo so io, caro... No, voglio dire, farebbe scandalizzare molto, caro Piazzalunga, quant'è? Ce ne so, 10.000, 20.000, non lo so, cioè... Meno di 10.000 euro. Ma molto meno, certo. Ma questo perché? Perché lei ha accettato una cifra bassa essendo consigliere regionale, o perché lei non era disposta a versare una cifra più alta? Perché comunque è un lavoro quello lì e magari vale anche 100.000 euro, non lo so. Ma guardi, noi avevamo un budget e sì, con questo budget abbiamo detto proviamo. Adesso ce li ho contro tantissima gente che non ho ancora capito se sono persone comuni. Sì. Forse ce n'è senz'altro qualcuna. Qualcuno mi dice 5.000 lordi, è possibile? Si può comunicare la cifra, non è uno scandalo, anzi fosse più bassa magari conviene anche alla diretta interessata. Guardi, mi hanno chiesto proprio con i loro... Sì, con, sì. Però, cioè, per favore, di non comunicarla. Cioè, io le sto dicendo che è una cifra molto bassa, cioè, quindi se siamo... È una cifra vicina a quella che ho detto? Diciamo così. Molto vicina. Molto però, vicina a quella che ho detto. Però io credo, signor Cruciani, sì, che forse non è questo qui il problema, no? Il problema è quello di con queste tutta questa storia, no? Sì. Che, va bene, L'abbiamo provocata noi, per l'amor del cielo. Ma no, ma voi fate bene, fate il vostro mestiere, fate il vostro mestiere, signor Piazzalunga, fate il vostro mestiere, fare pubblicità, destare scalpore, fare notizia, fate benissimo, fate benissimo. Però le assicuro, signor Cruciani, che in questo momento, in questo particolare momento, forse il problema dell'Italia non è l'azienda Parac che ha preso come personaggio per il suo show di 10 minuti e non come testimonial dell'azienda, testimonia quello che sarà messo sui giornali, che presenterà il prodotto al largo pubblico. Sì. Abbiamo preso come show per far parlare. Vabbè, ma anche ma fosse stato così, scusi, lo dica apertamente, però scusi Piazzalunga, perché sennò mi sembra strano, cioè voi avete preso la Minetti per far parlare di voi, cioè non mi dica il contrario, perché sennò mi cade tutto qua. Certo, per far parlare di noi, certo. Vabbè, ma certo che non è problema dell'Italia, ma questo chi è che le suggerisce? Sua moglie le suggerisce le risposte da sotto? No. Guardi, siamo... Parenzo le deve dire qualcosa di cattivo. Parenzo, di qualcosa di cattivo. No, voglio chiedere all'amico Piazzalunga si chiama, no? Sì. Big Square, cioè Big Square, voglio dire chiedere che più bello Big Square. No, Long Square. È molto più bello. Voglio chiedere al dottor Long Square quanto vale il corpo, a prescindere da quando, ma secondo lei, da esperto, il corpo della Minetti, quanto vale il corpo? Ma che vuol dire quanto vale il corpo? Dal punto di vista pubblicitario? Sì. Avete aumentato le vendite in questi giorni o no? Ma guardi, non lo so, siamo talmente presi con quello che sono le vendite per la prossima estate che non... Vabbè, adesso mi dica, avete avuto qualche dato degli ultimi giorni, no? Ma i dati sono dati che non sono indipendenti dal discorso sfidato o non sfidata. Cioè, stiamo vivendo... Chi è che ha avuto l'idea? Lei? Ha avuto l'idea lei di ingaggiare? Guarda, stare in una galleria. La richiamo subito. Beh, qualcuno mi scrive giustamente, ma questo qua si lamenta per la pubblicità che cercava, non è che si può lamentare per la pubblicità, mi hanno dato fastidio, le critiche ci fanno bene, questo deve rispondere il signor Gregory Long Square, come lo chiami tu, il capo della, di questa azienda, ripetiamo il nome, tanto ormai lo sanno tutti, sentiamo ancora, eccoci qua. Sono ancora in galleria, se cade perdonatemi. Sì. Allora lei deve dire, le critiche ci fanno bene, ci hanno fatto guadagnare un sacco di popolarità le critiche, dunque fateci ancora più critiche, non è che le fanno male, perché giustamente a noi ci scrivono, questo si lamenta per la pubblicità che cercava, ma voi cercavate le critiche e le avete ottenute o no? Non faccia l'ipocrita. No, veramente non cercavamo questo tipo di critica, perché penso che a chiunque faccia male parolacce e tipo mi fate schifo, dovete fallire. Vergogna insomma non è una grossa parolaccia, ma diciamo che il grosso attacco noi l'abbiamo avuto sul nostro Facebook. Sì. E continua. Ma che ne frega? Ma che vi frega di Facebook? È bruttissimo quando sul muro della propria casa, sì, no, il muro della propria casa viene imbrattato, no? Quindi insomma. Comunque, anche alcuni personaggi pubblici come Tiberio Timperi, Fabio Canino hanno criticato, anche uomini, io non capisco perché, vuol dire, lei lo dica apertamente, io non ho fatto nessuna scelta immorale, a me che me ne frega che quella è consigliere regionale, è una donna immagine che fa notizia e l'ho scelta per questo, se lei me lo dice, certo. O no? Io non sono la persona adatta a giudicare un'altra persona, non mi permetterò mai. No, ma scusi, lei la scelta, signor Piazzalunga o Long Square, perché come dice Parenzo? È un personaggio criticato. Personaggio criticato? Lei ha scelto la Minetti, non ci chiedo per fare la filata. Che dice lei? Ma scusi, no. L'ho scelta anche perché è una bella donna. Sì, vabbè, ho capito, però ce ne sono tante di belle donne. Scusi. Vabbè, allora se la mettiamo così mi dica cosa le devo rispondere, mi scusi. No, ma io, se lei dice così, secondo me c'è un po' di coda di paglia. Io ripeto, appoggio la sua scelta, è stata una scelta geniale. Cioè, la scelta geniale è quella: io voglio fare discutere e porto la Minetti a sfilare. Gli do 5.000 euro lordi. Questo, naturalmente, è quello che dico io. Lei più o meno me l'ha confermato, cioè poco, nulla, e ottengo una grande pubblicità. Prendetevela in quel posto, tutti quanti voi che mi criticate. Io mi aspetto la battaglia, uno che combatte all'arma bianca. Invece lei sta così, un po' timoroso. La pagina di Facebook mi scrivono, ma che gli frega? Pagina Facebook. Mi ha dato un bel suggerimento. Beh, io guardi, sono anche un suggeritore da questo punto di vista. Parenzo, che devi dire? No, dico che il signor Long Square, che è un imprenditore, sta qui a fa bubù quando tutti parlano di lui, ha scelto la Minetti per fare la sfilata e non Cicchitto, quindi se ha scelto la Minetti vuol dire che è adatta per promuovere il suo prodotto. E lo dica, non è che scelgo... Di chi si lamenta? Non mi fa... Ma non si sta lamentando. Non mi sto lamentando. Fa il pianto greco, mi hanno scritto su Facebook, Quante robe scrivono a me, lei come dica, orgoglioso, io ho preso la Minetti e la riprendo ancora e la pago di più, subito lo faccio. La vuole far sfilare ancora Piazza Lunga? No. Basta. Perché basta? È morta. Adesso pigliamone un'altra, pigliamo un altro politico, su Piazza Lunga. Benissimo. Che dice, un altro politico, va bene? Chi è che pensi? Guardi, è la prima volta che nella storia dell'azienda che rappresento che andiamo a prendere un personaggio politico e un personaggio chiacchierato. Sì. Non lo faremo più, continueremo sulla nostra strada, cercheremo con le nostre risorse. Non lo faremo più, cioè si è pentito alla fine? No, non mi sono pentito. Però? Ma non lo faremo più, cioè, uno può andare, cioè, può fare delle scelte, no? È orgoglioso di questa scelta? Ma io questa scelta l'ho fatta. La rivendica, è orgoglioso? E, guardi, quando abbiamo dato la notizia che ci sarebbe stata la Nicole Minetti durante la sfilata, abbiamo già cominciato ad avere tantissime critiche. Lì noi abbiamo deciso di farla sfilare comunque. Sareste state dei pazzi furiosi. Se no. Comunque, la Clerici la prenderebbe? Ma neanche morto. Perché i costumi le starebbero troppo? Non le starebbero i costumi? No. Diciamo, non è adatta ai nostri costumi, su, diciamo la verità. È un po' troppo in carne, diciamola tutta, su. No, veramente è bella la linea per i costumi per la signora Clerici. Ah, avete una linea di costumi per la signora Clerici? Che sono? La linea di costumi, che taglia è? Ma questo... È una signora normalissima, una bella signora. La vedrei con uno splendido costume intero. Intero. Senta una cosa, però non la prendereste mai, è chiaro, dopo quello che ha detto. Guardi, te lo dico proprio in queste ore dove siamo abbastanza tagliati da pesanti critiche, autorevoli o meno autorevoli, comunque rimangono critiche. Le dico subito. Mi dica. Torneremo. A fare comunicazione con delle gran belle modelle, però non chiacchierate. No, basta. Scusi, il fatto che la Minetti fosse sia sotto processo, la cosa non l'ha disturbata un po'? Non gliene frega niente di questa vicenda per induzione alla prostituzione, eccetera. Questa cosa non l'ha toccata minimamente? Ma no. Cioè, a me interessava far vacanza. Cioè, non le interessava. L'abbiamo fatto, ci sono arrivate addosso un sacco di critiche. Meglio così per voi. Abbiamo messo il dito nella piaga di quello che è il vero problema italiano, che è tutto un sistema. Vabbè, la devo lasciare adesso, la devo lasciare Piazza Lunga, la devo lasciare, un abbraccio, continuate però, non si tiri indietro, se no mi delude. A domani 18.30, ciao Parenzo, hai fatto bene stasera? Cruciale vaffanculo, stronzo e cruciale. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.